in primo piano. Good morning, we've talked the whole night through. Good buongiorno, morning. Buongiorno da Elisabetta Fiorito dalla redazione. Saremo insieme per due settimane per questa rassegna stampa d'agosto. Intanto salutiamo la nostra ospite Alessandra Sardoni, presidente di Stampa Parlamentare, nonché conduttrice televisiva. In questo momento sta conducendo In Onda sulla 7. Buongiorno Alessandra. Buongiorno Elisabetta, buongiorno a tutti. E con te leggiamo insieme l'intervista di Matteo Renzi su Repubblica, perché questa è la pagina più importante, è la settimana decisiva. Ricordiamo, oggi pomeriggio riparte la maratona in Senato, ci sono ancora 600 poi emendamenti al decreto della pubblica amministrazione, insomma c'è una settimana di chiusura parlamentare. È vero, ammette Matteo Renzi in intervista a Repubblica, Claudio Tito: la ripresa è debole, ma non siamo messi male e il prossimo non sarà un autunno caldo. La troica non arriverà e semmai ci fosse bisogno di una manovra non imporremo nuove tasse. Comunque rimarremo sotto il 3% nel rapporto deficit-PIL. Di manovra aggiuntiva si parla su molti giornali. La domanda che facciamo ai nostri radioascoltatori mandando un sms al 349-238-6666 è se pensate che in autunno alla fine il governo sarà costretto a fare una manovra aggiuntiva oppure no. Intanto parliamo di riforme. Lei è proprio sicuro, dice Claudio Tito, che sia questo il modo migliore di realizzare le riforme? Non serviva una discussione più ampia, risponde il Premier. Intanto non le abbiamo ancora fatte. Di certo si è fatto un passo avanti anche grazie alla straordinaria dedizione dei senatori della maggioranza che hanno sopportato insulti ingiustificati. Si può fare sempre meglio, la controprova non esiste, ma per me stiamo facendo bene. L'obiettivo di qualcuno non era fermare le riforme, ma fermare noi. Non ce l'hanno fatta e con il referendum alla fine l'ultima parola sarà dei cittadini. Non è solo questo, spiega Claudio Tito, forse il confronto poteva essere arricchito da un dibattito culturale più profondo. Risponde Renzi: sono 30 anni che facciamo dibattiti culturali, ora è il momento di decidere. Certo, c'è una parte dell'establishment che non sopporta il mio stile e poi a un certo punto dice anche però che questa riforma non è la chiave di tutti i problemi, ma è il simbolo più forte. Dopo la sua approvazione a settembre partono i 1000 giorni. Questi 1000 giorni ci sarà in primo il ritorno della politica, riforme costituzionali, legge elettorale, politica estera nel Mediterraneo e in Europa, la sfida educativa con scuola, cultura e RAI, la spending che è un'operazione politica e non tecnica. Secondo, un paese più efficiente, fisco, giustizia, pubblica amministrazione, lavoro e sblocca Italia. Il lavoro è già partito e i 1000 giorni saranno presentati entro il mese di agosto. Si vota nel 2018? No, dice Renzi, che la data delle elezioni in Italia è decisa dal Presidente della Repubblica, che fa proprio le valutazioni sulla base della Costituzione. La mia scommessa è che questa legislatura abbia una dimensione quinquennale, quindi appunto nel 2018. Lei dice di essere aperto al Senato. Che cosa si può cambiare del testo all'esame? Tutto quello su cui c'è la maggioranza. Questa non è una riforma imposta, ma costruita da un paziente lavoro di ascolto e dialogo. Lei dice che è facile, però poi quando si lamentano di Grasso, spiega Renzi, io dico che il Presidente del Senato è stato troppo accondiscendente con le richieste dell'opposizione. Il canguro è uno strumento di decoro, a meno che non si voglia davvero prendere sul serio gli emendamenti di chi ha proposto, come il costituzionalista Minzolini, ricordiamo Augusto Minzolini del PDL, di cambiare in Gilda il nome della Camera. Ma è vero che siete pronti a trattare sulla base elettorale del Capo dello Stato, sulle firme per indire il referendum e soprattutto sull'immunità? Noi siamo pronti a discutere di questo e di altro. Pensa quindi che si possa tenere il referendum confermativo quando? Ragionevolmente tra il 2015 e il 2016. Il dialogo vale anche per la legge elettorale? Certo, ci sono dei punti di maggiore discussione come appunto le preferenze, le soglie di sbarramento e quello appunto per accedere al premio di maggioranza. Su Berlusconi dice pure che non ci sarà più una legge ad personam e quello che c'è scritto nel patto del Nazareno non è segreto, ma è quello che praticamente si legge negli atti parlamentari sulle riforme. Ora poi si passa alla questione della manovra dopo le riforme mille giorni, ma non è che a settembre ci sarà un autunno caldo e Renzi dice basta con questa narrazione degli autunni caldi, che è un noioso déjà vu. Dove trovate però 20 miliardi, li dovete trovare oppure no? Definire le cifre del 2015 è premature. Iniziamo col dire che non ci sarà una manovra correttiva, con buona pace di Brunetta e Company. Abbiamo un impegno di ridurre le spese di 16 miliardi, il che vuol dire il 2% della spesa. In ogni caso non toccheremo le tasse, tutti i denari che servono verranno dalla riduzione della spesa. L'Italia supera il rapporto del 3% tra deficit e PIL? Assolutamente no, e non siamo nemmeno messi male. Insomma, Alessandra, un Renzi deciso comunque a portare a casa almeno il primo sì di questa riforma per l'8 agosto, giusto? Beh, questo naturalmente sì, è molto deciso e anche pronto a difendere il suo stesso piglio decisionista e il primato della politica, come si chiama, che è quello che lui sta cercando di ripristinare, anche comprensibilmente e legittimamente. Però questa intervista è interessante anche per le molte ammissioni che contiene, a partire da quella che, mentre lui dice la manovra correttiva non ci sarà, poi dice però in ogni caso se dovesse esserci, quindi la ammette, non ci saranno aumenti di tasse, ma ci saranno tagli di spesa, e lì arriva naturalmente al nodo di questi giorni, a questo rapporto controverso con il commissario della Spending Review, Cottarelli. Sì, che lui ha detto non è una questione di persona, è una questione poi comunque di tagli. Ecco, su invece il secondo capitolo, che è quello della legge elettorale, Giachetti in un'intervista al Corriere della Sera invece è contro la tentazione delle preferenze. Dice non fanno parte della nostra storia, ma nel PD, avverte Giachetti, che ricordiamo è un renziano della prima ora, è nata la corrente dei ripensisti. Capito? È nata una nuova corrente, per esempio, penso a Bersani, posso produrre tutte le sue dichiarazioni al vetriolo contro le preferenze, ora invece è diventato tutto a un tratto favorevole a questa ipotesi. Anche quindi nel PD c'è sempre una spaccatura. Adesso ci sono i renziani che sono sfavorevoli alla possibile modifica sulle preferenze, Alessandra. Prima invece sembrava che tutto il PD fosse per le preferenze. Quindi anche qui su questa riscrittura dell'Italicum c'è molto da fare. Non è che così tutto quanto già deciso. No, non è deciso, e soprattutto in realtà cioè nel PD i renziani erano, e Renzi ha approvato l'Italicum nel patto con Berlusconi, contro le preferenze. Il problema è che questo decisionismo di cui parlavi prima a proposito, citando l'intervista di Renzi a Repubblica e comunque in generale il suo piglio, però questo decisionismo in realtà è stato possibile soprattutto per quanto riguarda la riforma del Senato, a costo di rivedere l'altra riforma, l'Italicum, con delle modifiche molto profonde. Quindi Renzi da una parte si impunta su delle cose, per esempio sul Senato non elettivo, però dall'altra sta cedendo in modo abbastanza clamoroso su altre, per esempio sulle preferenze, e lì sta cedendo a una parte del PD che non è quella di Giachetti e non è neanche quella dei renziani, e naturalmente deve fare una trattativa con Berlusconi su questo. Anche Berlusconi non è d'accordo sulle preferenze. Però devo dire, un tema abbastanza spinoso questo qui, è un ripensamento profondo, per questo Giachetti lo mette in guardia. Senti, e invece sul giornale, quindi andiamo un attimo a scavare che cosa succede in Forza Italia, il Cavaliere dice che sulle riforme il patto c'è, va bene, quindi viene stabilito, ma intanto una stretta di mano. Quindi intesa scritta non se ne parla, anzi addirittura dice ma ti pare che uno va dal notaio e mette nero su bianco che il tal accordo prevede la tale contropartita, che ne so, si farà la riforma istituzionale e della legge elettorale, ma pure quella della giustizia, e che magari si voterà insieme il prossimo Presidente della Repubblica, uno scenario così lontano che neanche un pollo. Quindi cioè anche questo avrebbe detto Silvio Berlusconi ai suoi ad Arcore, e comunque comunque ha detto anche che sulle riforme ci siamo, sul resto siamo pronti a logorare il PD. Quindi questo famoso patto del Nazareno poi è sempre un patto ballerino, perché Berlusconi, si sa, no, non è mai così netto. E fino adesso ha tenuto, ma terrà ancora? Ma per adesso tutti i segnali dicono che terrà. Il problema è che mi sembra che Berlusconi sulle riforme abbia tutto l'interesse a rispettare questo patto e a star fermo e a vedere che cosa succede sul fronte veramente debole per Renzi, che è quello della partita economica. Quindi è un po' un Berlusconi che sta lì, che aspetta. Lui dice: io il patto l'ho firmato, sono pronto anche a rincontrarti, e si dovrebbero vedere domani Berlusconi e Renzi per vedere che cosa si può fare e aggiustare sulla legge elettorale, che, come dicevamo, è la contropartita della riforma del Senato, per quanto riguarda Renzi, per farla andare avanti in Senato, non con Berlusconi naturalmente. E per tutto il resto sta invece fermo a vedere che cosa fa il governo, che rischia di incartarsi da solo e di avere i suoi problemi da solo rispetto alla manovra correttiva di cui parlavamo prima, se c'è o non c'è, alle previsioni che tu hai citato e che sono contenute anche nell'intervista di Renzi, che Claudio Tito insomma opponeva alle risposte di Renzi, e che comunque restano dati negativi dell'economia. Quindi mi sembra che Berlusconi abbia l'interesse a rispettare il patto, sapendo che la partita è su un altro tavolo. Anche perché, proprio sempre sul giornale, dice: questo esecutivo va a impattare con una ripresa che non c'è. Nell'intervista a Repubblica, infatti, Renzi parla anche delle critiche che si fanno ai famosi 80 euro, Alessandra, no? Dice: a chi dice che gli 80 euro non hanno rilanciato i consumi, rispondo di aspettare i risultati consolidati. Ma si tratta di un fatto di giustizia sociale, il più grande aumento salariale degli ultimi anni. E a un certo punto Tito, che noi conosciamo anche con il suo stile british, però no, infila una stoccata e dice: alla fine molti dicono che il rapporto con il ministro Padoan, il ministro dell'economia, va malissimo. E lui, Renzi, risponde: non me ne sono accorto, credo neanche lui. Alessandra, ti ricordi tutti i governi? In tutti i governi il premier a un certo punto litiga col ministro dell'economia. Non è una novità questa? No, non è una novità, però in realtà dobbiamo dire che questo rapporto tra Renzi e Padoan, naturalmente dei terreni di attrito ci sarebbero, delle frizioni, no? Sono, diciamo, possibili e immaginabili. In realtà non è mai emerso in modo diretto un conflitto tra Renzi e Padoan sul modello di quelli che abbiamo conosciuto, gli scontri tra Berlusconi e Tremonti, e poi dopo Monti non poteva scontrarsi perché a lungo è stato lui stesso ministro dell'economia, ma insomma poi quando ci sono stati gli scontri tra Passera per esempio e Grilli, insomma, però questo alla luce non è venuto fuori, tranne che naturalmente è un segnale di terreno molto scivoloso proprio il caso Cottarelli, perché lì è Cottarelli che è voluto restare, diciamo, dalla parte del Ministero dell'Economia, e poi insomma ha aperto un conflitto un po' più visibile con la ragioneria, però non tanto con il ministro Padoan. Quindi diciamo, i retroscena sicuramente lo segnalano, perché si capisce che il decisionismo di Renzi e anche le linee di il fatto che abbia cercato e stia cercando di costituire una cabina di regia economica a Palazzo Chigi diversa da quella del MEF fanno supporre che una dialettica perlomeno ci sia, però ancora non, lui può rispondere così perché in effetti un caso di scontro palese Renzi-Padoan non c'è stato. No, non c'è stato, ma insomma non è come ai tempi di Berlusconi con Tremonti, ti ricordi? A un certo punto ci furono le dimissioni. Allora, la scure di Cottarelli si abbatterà soprattutto sulle partecipate delle amministrazioni dello Stato, no? Una drastica sforbiciata al loro numero, e diciamo che praticamente ci sono anche dei casi abbastanza eclatanti. Uno è in Lombardia, dove praticamente l'informatica, la società per la fornitura di beni e servizi elettronici, raggiunge la cifra monstre di 185 milioni di euro. Costa molto, ma almeno uno penserebbe la regione risparmia sulle spese in computer, si presume. Sbagliato: nel bilancio preventivo per la cassa della giunta Maroni figurano nel 2014 altri 71 milioni per statistiche e servizi informatici. Altro caso, il comune di Roma Capitale, indovina dove? Si tratta dell'AMA. Ai conti del 2012 la società romana per la raccolta dei rifiuti ha fatturato 600 752 milioni di euro, ma il totale delle erogazioni pubbliche a suo favore ha superato il miliardo. In sostanza ha incassato 250 mila euro per polizia che non ha mai fatto, ma questo l'abbiamo notato, noi viviamo a Roma, Alessandra, si nota. Ebbene sì. A Venezia, per esempio, invece c'è addirittura il casinò viene sussidiato dalle tasse per oltre il doppio del suo fatturato, per non parlare dell'istituzione per la conservazione della gondola e della tutela del gondoliere. Fattura 500.000, incassa dal comune 760.000 euro. Insomma, gli sprechi, ha voglia a tagliare. Allora, noi ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla regia per ritornare poi insieme, Alessandra. In primo piano. E sul Sole 24 Ore, sul nostro giornale invece, questa mattina c'è proprio l'apertura di dove colpirà il nuovo catasto. Sono Pistoia, Pesaro e Messina, i tre capoluoghi in cui è più grande la distanza tra i valori catastali e le quotazioni di mercato, in cui è più elevato il rischio di aumenti fiscali con la riforma del catasto. Intanto venerdì scorso la Commissione Finanza del Senato ha dato il via libera al decreto attuativo della delega dedicato alle commissioni censuarie. Insomma, anche c'è una guida pratica per la famiglia, le regole e le opportunità nel condominio e anche le scelte di portafoglio sugli immobili. Quindi, insomma, una panoramica soprattutto su chi rischia città per città con la riforma del catasto. Ai ai ai, sappiamo che la riforma del catasto poi si andrà a abbinare a quella della casa. Sul Corriere della Sera invece la crescita ostaggio del debito, la spesa per interessi dal 1993 è stata di 1.650 miliardi, negli ultimi 20 anni crescita ostaggio del debito, l'Italia ha speso 1.650 miliardi pari al 6% del prodotto interno lordo per pagare gli interessi sul debito pubblico contro i 1.058 pagati dalla Germania, il 2,4% del prodotto interno lordo, l'870 dalla Francia, 2,6% del PIL, 386 dalla Spagna, 2,4% del PIL. Il decreto della pubblica amministrazione, ritorniamo a un altro tema, sono 600 gli emendamenti per Stefano Fassina, ricordiamo, ex vice ministro all'economia del governo Letta, i tagli sono obiettivi irraggiungibili. Insomma, abbiamo visto questo che frena l'economia italiana da tempo ed è appunto qual è il paese tra i principali europei con il saldo migliore tra entrate e spese al netto degli interessi dell'amministrazione pubblica negli ultimi 20 anni. L'Italia è con molto distacco, considerando che ha accumulato 580 miliardi di euro del cosiddetto avanzo primario, con un 20% riferibili alle privatizzazioni contro gli 80 miliardi della Germania dal 95, saldi negativi per la Francia meno 479 miliardi e Spagna meno 270 miliardi. Però peccato che ciò sia servito in gran parte a pagare gli interessi sulla fonte principale dei guai, il debito pubblico. Questo il Corriere della Sera. Insomma, Alessandra, questa addirittura si parla che con il governo Renzi probabilmente il debito a fine anno potrebbe arrivare al 140%. Insomma, è una cifra che nemmeno sta nelle nostre teste. Questa manovra correttiva sembra sempre più probabile? Beh, la manovra correttiva sembra probabile, perché lo dicevamo prima commentando l'intervista che ha fatto Claudio Tito su Repubblica oggi a Renzi, è Renzi stesso a dire che la manovra correttiva non, dice, se ci dovesse essere, e quindi questa è la missione come sottolineavamo prima, in realtà io posso promettere che non sarà di nuove tasse. E in effetti poi alcuni retroscena parlano di tagli parzialmente lineari, cioè di alla fine le alternative poi sono due: se non vuoi aumentare le tasse la spesa la devi tagliare. E invece proprio sui tagli alla spesa, cito ancora una volta il caso Cottarelli, perché proprio sui tagli alla spesa il governo continua a rispondere che è la politica che decide, ma continua a non decidere. In realtà anche la protesta di Cottarelli è che a fronte di una spending review, di un programma scritto di tagli, il governo semmai non prendeva nessuna decisione e aumentava la spesa. Questo è stato l'allarme di Cottarelli, quindi un invito alla politica a decidere. È chiaro che queste cifre, e mercoledì sono attesi anche nuovi dati dell'Istat e tutti si aspettano, compreso Renzi, credo, che siano purtroppo negativi i dati sulle delle previsioni economiche che usciranno, che l'Istat farà uscire mercoledì, e quindi insomma mi sembra chiaro che forse si aspetta quel momento poi per dire che cosa succederà della manovra e dei conti pubblici. Infatti Italia Oggi con Marino Longoni titola: la stangata è dietro l'angolo. La maggior parte degli economisti prevede per ottobre una manovra correttiva da 20 miliardi. L'unica alternativa è la voluntary disclosure. Ma c'è chi rema contro. I conti non tornano, ormai lo ammette anche il governo. La crescita del PIL per il 2014, ipotizzata allo 0,8%, nella migliore delle ipotesi sarà dello 0,2-0,3%. Su questo concordano le stime del Fondo Monetario, di Mediobanca e di Confindustria, e la spesa pubblica, nonostante tutte le spending review, non accenna a fermarsi, ma continua implacabilmente a crescere. Nel solo mese di maggio è aumentata di 20 miliardi. Il rapporto fra il debito pubblico e il PIL, che col governo Monti era passato dal 120 al 126%, è arrivato al 132% con il governo Letta, e con Renzi ha superato il 135%. Si prevede che a fine anno sfonderà quota 140%. Ecco, quindi anche il secolo XIX, Renzi deficit al 2,6%, così trova 4,5 miliardi, l'Italia non intende finanziare i fondi strutturali, strategie per confermare gli 80 euro in busta paga, slalom tra le percentuali per Matteo Renzi, che vuole confermare il bonus di 80 euro, il governo vuole portare il deficit al 2,6%, nonostante la crescita sia ferma tra lo 0 e lo 0,2%. In gioco 4,5 miliardi. Alessandra, diciamo anche, no, che Renzi ha detto il bonus però non sarà estendibile, cioè solo quelle categorie che l'hanno avuto lo continueranno ad avere, non si estenderà ai pensionati. E infatti questo è, appunto, è sempre questo un po' il controcanto che stiamo facendo al decisionismo, no? E invece sono le ammissioni, questa non era contenuta nell'intervista di Claudio Tito, ma addirittura nella conferenza stampa che c'è stata qualche giorno fa a Palazzo Chigi. Renzi ha ammesso che, appunto, non sarebbe riuscito ad estenderlo, ha continuato a promettere questo. Immagino che lui, pur di fare questo, farà qualsiasi cosa invece di rendere strutturale la platea che già c'è, e quindi di non lasciare che si possa dire che gli 80 euro sono stati soltanto una mossa, un una tantum, una mossa elettorale, anche perché non avrebbe nessuna efficacia. Quello forse su cui ha ragione, che diceva nell'intervista a Tito, è che è presto per valutare se abbia funzionato dal punto di vista dei consumi, perché in effetti non sono arrivati veramente nella busta paga di maggio, cioè sono arrivati nella busta paga a fine maggio, e quindi bisogna un po' aspettare per vedere se poi la gente è riuscita anche a spenderli sui consumi, questi 80 euro. Le rilevazioni, insomma, ancora sono da attendersi, però certo che quella missione lì che tu citavi, il fatto che gli 80 euro non possano essere estesi, è sicuramente un problema dal punto, insomma, è rivelatore di una difficoltà. Allora, cambiamo argomento, ora non so se ci seguirà in questi argomenti che sono un pochino diversi, no? Perché a un certo punto abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato di economia, adesso vogliamo parlare di come apre il Foglio questa mattina, che non c'è una sicuramente doppia apertura con una fuga di massa dalla Libia in mano alle milizie, ma soprattutto parla del chi ha ucciso Marco Pantani, troppi misteri e troppi buchi neri sulla morte del pirata, 10 anni dopo si riapre il caso, non suicidio involontario ma omicidio. Ecco, fa sempre un po' pensare però il fatto che dopo 10 anni si riapre un'ipotesi investigativa, addirittura la Gazzetta dello Sport parla di una strana telefonata. Qualcuno del Residence Le Rose cercava il pirata che era già morto sul cellulare sbagliato, un altro mistero. Il personale dell'albergo sapeva già della fine del romagnolo, perché allora chiamarlo? Chi ricevette la telefonata venne ascoltato dagli inquirenti, ma la circostanza di questa surreale conversazione non è mai stata approfondita. Ti chiedo una domanda generica, Alessandra. Secondo te è necessario riaprire un caso che poi comunque è stato un caso dirompente nello sport, ma anche nella vita culturale italiana, no? Perché Pantani è sembrato fare una fine proprio da rock star, tipo Janis Joplin, tipo Jim Morrison. Ecco, tu credi al fatto che bisogna riaprire questa inchiesta, come chiedono i familiari, perché pensano che sia un omicidio, oppure secondo te questo rigirare sempre attorno alle stesse inchieste poi non fa bene alla giustizia italiana? Ma distinguerei, perché in realtà qui, se ci sono degli elementi, come in tutte le cose, ci sono degli elementi che portano a anche a scrivere una storia diversa da quella che si è celebrata o raccontata prima, però sono degli elementi fondati e c'è una ricerca della verità da fare, secondo me vale sempre la pena di farla a costo di rovesciare delle letture, delle letterature, quindi sicuramente sì, bisogna naturalmente valutare la fondatezza di questi elementi, e questo forse può essere difficile, però insomma mi sembra che in questo caso il fatto appunto che anche il Foglio del Lunedì insomma faccia questa rassegna, diciamo così, di articoli che si sono occupati della, cioè che dia spazio a questa vicenda, mi sembra che insomma anche per il tipo di impostazione che ha questo giornale significa che insomma, forse degli elementi di fondatezza ci sono, ecco, che il caso c'è tutto. Poi i familiari è naturale che cerchino ovviamente di fronte a un dubbio del genere, che peraltro hanno sempre avuto, di andare fino in fondo e di spingere in quella direzione, ma credo che insomma sarebbe clamoroso e serve a tutti sapere la verità. Ecco, qui purtroppo il sospetto è che ci sia poi, no, le mani della criminalità organizzata, dello spaccio di droga dietro questa vicenda, e quindi bisogna comunque andare a fondo. Fino in fondo. Parliamo invece purtroppo di quello che è accaduto in Veneto, quando travolti alla festa da un'onda alta 3 metri, così ho visto morire i miei 4 amici. Bomba d'acqua e palazzo Chigi, cambiamo pagina, 1,1 miliardo per la sicurezza. Gli assalti alla natura nelle terre del Prosecco, le colpe degli uomini prima del nubifragio, l'articolo del Corriere della Sera, c'era gente sugli alberi, le auto si rovesciavano, i superstiti raccontano la tragedia di Refrontolo e piangono i morti, Ciano, Gianni, Fabrizio e Lot. Eravamo amici, non ci sono più. Gian Antonio Stella si chiede se è solo fatalità. No, era già tutto scritto, denunciato, provato da altre fane. Se non fosse caduta la bomba d'acqua, ovvio, il tendone della sagra non sarebbe stato spazzato via, ma la strage di Refrontolo è figlia anche degli assalti del territorio, come l'abbattimento dei boschi per far spazio alle vigne del Prosecco Shire. Ora, questa è una cosa che si ripete ogni volta che c'è una tragedia in Italia, no? Quanto poi l'uomo è colpevole, soprattutto in questo momento, in quest'estate, dove non c'è mai stata così tanta pioggia da 35 anni e le previsioni sono che da oggi le condizioni migliorano, sarà un buon Ferragosto, ma intanto oramai si parla solo di bombe d'acqua. Quante volte abbiamo partecipato, Alessandra, a consigli dei ministri in cui si decretava lo stato di calamità, lo stato d'emergenza per una regione, per una regione particolarmente colpita. Si è parlato di un piccolo Vaillant, il Vaillant era colpa dell'uomo. Questo qui secondo te è colpa dell'uomo o poi si esagera sempre un po'? Ma no, io sono abbastanza d'accordo con il pezzo di Gian Antonio Stella, che oltretutto è un esperto di queste cose e di questi argomenti, e quindi insomma e cita dei fatti. Purtroppo la colpa dell'uomo sappiamo che in Italia è molto frequente, perché tra gli abusi, le storie di abusivismo edilizio, l'incuria del territorio, le cementificazioni sbagliate, in questo caso addirittura invece è la questione del Prosecco, cioè l'alterazione o comunque il non fare una politica del territorio adeguata, e anche quando porta, in questo caso anche quando è benefica per l'economia, come può essere sicuramente mettere delle vigne, però insomma farla senza una lungimiranza, senza pensare alle conseguenze, purtroppo in Italia è frequente, soltanto che poi appunto si interviene sempre dopo e spesso non si interviene affatto, perché si fa, come tu citavi giustamente, i molti consigli dei ministri che decretano lo stato di calamità naturale, quindi lo stanziamento in realtà di altri fondi, e poi si va avanti, non è che invece lo stanziamento per la prevenzione viene fatto o applicato in modo adeguato. Questo è un altro dei temi, proprio dei grandi classici, mettiamo così, purtroppo poi però diventano dei classici anche le morti, insomma. Allora ringraziamo la nostra ospite di oggi, che lasciamo andare a fare colazione, che è stata con noi, ricordiamo, Alessandra Sardoni, presidente di Stampa Parlamentare, con lei che ha consegnato poi il ventaglio a Napolitano. Il presidente è stato duro quest'anno. Quest'anno è stato duro, insomma, no? È sempre un'occasione interessante, perché è l'unica occasione in cui il capo dello Stato risponde alle nostre domande. Io in realtà appunto porto un po' le domande di tutti quelli che sono nell'area al capo dello Stato, e quindi certo, naturalmente bisogna trovare una forma istituzionale per porgerle, perché non è una conferenza stampa, però è un appuntamento importante, quindi è stata una bella occasione anche quest'anno. Però non ci ha detto quando si dimette, non ce l'ha detto. No, in realtà Napolitano ha fatto capire che il suo orizzonte è quello del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea, quindi in realtà un'indicazione l'ha data, però ha anche detto che è lui che sceglie, quindi insomma giustamente insomma ha fatto questa precisazione, però un orizzonte l'ha indicato, non l'ha più legata soltanto al compimento delle riforme nel complesso, e quindi che oggi anche Renzi mette lì che ci vorrà ancora parecchio tempo. Allora ricordiamo Alessandra Sardoni, che è però in onda alle 8:30 sulla 7, no? Con Salvo. Grazie, Sottile, Elisabetta, ogni sera insieme a Salvo Sottile per una trasmissione molto molto seguita sulla politica e su tutto quello che avviene in Italia. Grazie Alessandra. Grazie Elisabetta, grazie a tutti, buona giornata. Allora noi continuiamo invece con la storia, la vera storia dei quattro tecnici che hanno ideato il sistema per recuperare la Costa Concordia. Ve la diciamo subito dopo il traffico. In primo piano. E sul Fatto Quotidiano la vera storia dei quattro tecnici che hanno ideato il sistema per recuperare la Costa Concordia, e siamo molto contenti che il Fatto Quotidiano, sempre molto critico in realtà come giornale, invece pone l'attenzione proprio sull'eccellenza italiana, i geni che sollevano le navi e l'Italia. Alla fine ci si sono messi il primo ministro con le scarpette tricolori, la parata dei potenti, ma in realtà dietro al salvataggio della Costa Concordia c'è una di quelle storie che sembrano inventate apposta per essere raccontate la sera dai bambini. Una storia di uomini in carne e ossa, di amicizia, di genio, quella dote tipica italiana che nonostante tutto non abbiamo perso. Sono quattro uomini, quattro italiani che hanno riportato la Concordia in porto: Silvio, Mario, Tullio e Giovanni. Se non ci fossero stati loro con le loro intuizioni, chissà come sarebbe andata a finire. Gente tipo Coppi e Bartali, che francesi e inglesi in questo caso ancora si arrabbiano, i tedeschi cercano di comperarsi e i cinesi di imitare. E qui c'è tutta praticamente la storia di questo team che praticamente ha salvato la Costa Concordia. E ricordiamo invece quello che sta avvenendo in Medio Oriente. Sappiamo benissimo che ieri è stata purtroppo di nuovo una giornata di guerra, anche se Israele ha deciso di ritirarsi. I funerali del soldato morti, altri palestinesi morti in una scuola ONU, e oggi c'è una tregua umanitaria di 7 ore che noi speriamo duri ancora, e vi consiglio un editoriale sul Corriere della Sera di Lorenzo Cremonesi. Iniziò con lo sbalordimento di Israele, come era possibile, Ariel Sharon, il falco per eccellenza, il beniamino dei coloni, l'ex ministro dell'edilizia che aveva sostenuto la costruzione degli insediamenti nel cuore dei territori occupati, adesso da premier era pronto a sfidare i suoi protetti e ordinare l'evacuazione di Gaza. Accadeva nel 2004. Il paese era ancora spaventato dalla lunga ondata di attentati suicidi voluti da Hamas e Sharon si presentava come il premier militare. Costruiva il muro a Gerusalemme in Cisgiordania. Insomma, in questo editoriale Lorenzo Cremonesi dice che da questo smantellamento voluto da Ariel Sharon, ricordiamo nel 2004 a Gaza, se ne esce molto male perché è un'occasione perduta. Sharon venne accusato di aver voluto un ritiro unilaterale senza trattare con il presidente palestinese Abu Mazen e di conseguenza regalando Gaza ad Hamas. Da allora la pace più difficile, meno israeliani credono nel ritiro dai territori occupati e più palestinesi sono influenzati dall'Islam radicale. Quindi il ritiro è l'occasione perduta per la pace. Ma adesso un piccolo alleggerimento, perché parliamo un po' di sport o di politica, insomma di un misto tra sport e politica. Non giudico la persona perché, come ha detto lui, non è un razzista e sicuramente sarà così. Le parole che ha detto però insomma sono gravi. L'Italia è un paese che ci ha abituato, insomma, in America, in Inghilterra, in Francia, se uno dice determinate cose il giorno dopo lo fanno dimettere, e qui in Italia, anche in ambienti molto più importanti della FIGC, anche personaggi più influenti di quello che può essere un presidente federale non si sono mai dimessi. Questo è un paese che funziona così ed è anche un altro dato su cui riflettere. Io credo che sono cose gravi e insomma adesso andiamo incontro a una stagione particolare, perché chi dirà, insomma, se litigo con un ragazzo di colore in campo e gli dico tu mangi le banane sarà una gaffa, quindi guai a squalificarmi. Quindi parte la battuta, sono cose abbastanza pesanti che... Allora, Daniele De Rossi, un lungo commento sul tormentone dell'estate. Sì, parliamo di Carlo Tavecchio. Lui dice alla corsa alla presidenza della FIGC, la nuova gaffe del numero uno dei dilettanti. Oggi ci sarà un'assemblea, Tavecchio... Mi hanno trattato peggio dell'assassino di Kennedy. Parolone grosse però, perché a un certo punto, insomma, stiamo parlando sempre di calcio, di comune accordo i candidati alla presidenza della FIGC, Carlo Tavecchio e Demetrio Albertini, hanno deciso di non incontrarsi oggi a Firenze nell'assemblea dei club, tappa strategica se non decisiva, una settimana dal verdetto dell'urna. Le cose sono due: o i nervi sono così tesi che i due preferiscono evitarsi, oppure il dialogo non serve più e l'accordo sotto banco c'è già, anche se proprio non si vede. A giudicare dalla linea tenuta da De Rossi, proseguita da Chiellini e sulla quale probabilmente si muoveranno nei prossimi tre giorni Pirlo e altri senatori azzurri dopo lo scatenante inferno via Twitter di Albertini, il palazzo del potere continua a scricchiolare, l'aria è da scontro totale. La pressione è alle stelle, sotto pressione si sa, Tavecchio dà il meglio di sé, l'assassino di Kennedy non ha subito quanto me. E pensare che proprio in questi giorni ricorre il trentennale del mio impegno in Africa, dove ho contribuito a far aprire un ospedale e dove ho adottato a distanza tre bambini. Ora, gaffe, insomma, voglio dire... genera gaffe, è stato eccessivo, Kennedy fu assassinato, ha detto un divertito presidente del Torino, Urbano Cairo, uno dei nove che hanno scaricato Tavecchio. Ecco, ci sembra pure a noi un po' eccessivo parlare di questo assassinio, che fu un assassinio purtroppo terribile per tutta l'umanità. perché a un certo punto si parla sempre di calcio. Scusate, io non sono una tifosa di calcio, per cui quando parlo di calcio mi sembra sempre di parlare di astronavi, di qualcosa a me sconosciuto, però mi sembra che i toni siano assolutamente un po' troppo sopra quello che è l'importanza di uno sport seguitissimo, però sempre uno sport. Parliamo invece di cultura, perché a Santa Cecilia a un certo punto si avviene un altro scontro, praticamente esasperato dalla ricerca di fondi, Bruno Cagli lascia dopo 20 anni, è diventata una fatica immane. Condizionamenti, la politica tenta sempre di poterti condizionare, gli unici che vengono da amanti della musica sono Ciampi e Napolitani e Napolitano, quindi anche qui c'è uno scontro praticamente, perché dopo 20 anni l'Accademia di Santa Cecilia a Roma perde il suo re. Insomma, la musica classica a Roma sembra non vivere una bellissima stagione, come si è aperta soprattutto con l'opera che è andata in scena a Caracalla, la Bohème, solo con l'accompagnamento del pianoforte, perché c'era uno sciopero di una parte dell'orchestra. Adesso questo sciopero si è bene o male rientrato, però vogliamo capire, si deve investire sulla cultura o non si deve investire? Perché è bello dire questo è il paese del sole, del mare e della cultura, però secondo noi forse va posta una maggiore attenzione a quello che è anche una caratteristica del nostro paese e del bel paese. Ricordiamo poi comunque che ci sono varie difficoltà anche con questa ondata di pioggia, a parte la tragedia in Veneto, perché questa ondata di pioggia, anche la capitale, anche Roma, è a forte rischio, il rischio idrogeologico, quindi rappresenta una minaccia quotidiana anche per Roma. Abbiamo visto la scorsa settimana c'è stata la voragine a Milano, e quindi non si preannuncia anche qui un'estate che favorirà lo sviluppo del turismo e del bel paese. Io vi ringrazio, vi do appuntamento di nuovo domani mattina e vi auguro un buon ascolto con Radio 24, con il GR e poi con Irene Zerbini.